memoria e identità nell'immigrazione, avevo detto che quella serata e quella di questa sera sarebbero state in qualche modo complementari, no? La volta scorsa abbiamo sentito la conferenza di Emilio Franzina che ci ha parlato dell'immigrazione italiana, soprattutto dall'area nord-orientale, negli altri stati d'Europa e anche dell'immigrazione transoceanica a partire dalla fine dell'Ottocento fino agli anni 50 del nostro secolo. E Mirella Grandi ci ha parlato dell'immigrazione trentina all'interno dell'impero austro-ungarico, quindi nell'attuale Sudtirolo, nel Vorarlberg, e Claudio Nolet ci ha parlato del problema dell'identità dell'immigrazione nel gruppo linguistico italiano in Alto Adige, no? Che è un gruppo che ha diverse provenienze regionali, no? Ecco, possiamo stratificare le correnti migratorie anche italiane in Alto Adige per periodi, per zone di provenienza, no? Ad esempio, l'immigrazione italiana in Alto Adige ottocentesca e tutta trentina proviene dalla Val di Cembra, dalla Val Sugana, ad esempio, per quanto riguarda la Bassa Atesina, proviene dalla Val di Non per quanto riguarda la zona di Merano, legata anche a settori produttivi diversi. L'agricoltura, ad esempio, per quanto riguarda la Bassa Atesina, oppure l'edilizia per quanto riguarda la zona di Merano. Poi negli anni 20 l'immigrazione anche è prevalentemente proveniente dal Trentino, negli anni 30 cambia la zona di provenienza e soprattutto il Veneto, in parte anche la Lombardia, legata più all'industria. Quindi nella serata di questa sera invece cercheremo di affrontare il problema relativo al rapporto fra memoria e identità nelle società multiculturali. E oggi pomeriggio, prima di venire qui, sono andato a riguardarmi un libro che avevo letto tanti anni fa, un libro di Vance Packard intitolato Una nazione di estranei, e ho avuto la stessa sensazione che ho quando guardo un vecchio film di Woody Allen, no? Cioè, riguardando un film di Woody Allen di 20 o 30 anni fa, ci viene da ridere, ma ci viene da ridere soprattutto per il fatto che ci veniva da ridere, no? Perché 30 anni fa, vedendo quei film relativi alla realtà americana, ci facevano ridere perché era una realtà così diversa da noi. Insomma, quando suonava il telefono e c'era la coppia a letto e lei diceva: "Non è il mio telefono, caro, è il tuo", ecco, ci faceva ridere, no? Perché c'era come due linee telefoniche in casa. Insomma, ecco. E adesso sono realtà abbastanza diffuse. Questo, ecco, riguardandomi questo libro di Vance Packard, ho avuto la stessa sensazione, perché è un libro scritto 30 anni fa negli Stati Uniti, che è una realtà dove tutta la popolazione ormai locale, una popolazione più o meno di recente immigrazione, insomma, no? E poi è una realtà dove la mobilità territoriale è tuttora notevolissima, no? Quindi in questo libro si cerca di analizzare il problema del sentimento di comunità in comunità che hanno provenienze molto, molto diverse, insomma, no? Ecco. E quindi questo problema che 30 anni fa, 20 anni fa, era un problema così teorico che uno poteva leggere per motivazioni molto, molto diverse, adesso è un problema che caratterizza anche la nostra società. Per questo motivo che vi abbiamo chiamato, invitato Aleja Bard dell'Università di Venezia e Maurizio Gusso dell'Università di Milano, i quali ci parleranno di due aspetti di questa questione. E il primo a intervenire è Aleja Bard. Bene, buonasera a tutti, grazie per l'invito e grazie per l'attenzione. Il mio così intento, spero che possa poi soddisfare la vostra aspettativa, è quello di trattare il tema molto impegnativo, insomma, memoria e identità in una società multietnica, partendo da una narrazione. Una narrazione di un giovane che approda in Italia alla ricerca del sogno di un migrante. Quindi io cercherò di definire il profilo del migrante, quindi parlerò, no, dentro questa identità, memoria e identità in una città multietnica, così sottolineando però quell'interprete di questa trasformazione sociale che è il migrante. E quindi parla dell'identità del migrante. E per trattare questo e per parlare di ciò, vi leggo la storia di questo giovane che viene dall'Africa, di nome George, che dice: mio nonno si alzava la mattina presto, molto prima del sorgere del sole. Con il fresco si lavora meglio, diceva sempre. Poi salutava le nonne, che intanto si era alzate per preparargli la colazione da portarsi dietro. Poi il nonno prendeva la zappa e se le metteva in spalla. Raccoglieva il fagotto preparato dalla nonna e la zucca dell'acqua e si incamminava verso il suo campo di caffè. Io, che allora avevo 5 anni, le dicevo: nonno, voglio venire con te nel campo. Lui sorrideva, poi diceva: dai, sbrigati, io sto partendo. E partivamo. Dopo mezz'ora di cammino arrivavamo al campo. Io mi divertivo a correre dietro ai passeri o giocavo con le cavallette. Eppure guardavo il nonno che lavorava. Quando lui mi chiamava, li portava da bere. Quando il caldo si faceva insopportabile, lui smetteva di lavorare e ci sedevamo l'uno di fronte all'altro sotto un albero per mangiare. Il nonno mi parlava del suo caffè, della terra, della pioggia, di come amare le piante e gli animali, mi parlava degli spiriti degli antenati, della cosa segreta che un nonno africano, come si deve, non può non rivelare al momento giusto al suo nipote. Quando veniva il momento, gli abitanti del villaggio si aiutavano a raccogliere il caffè nei diversi campi. Poi il nonno ed alcuni altri uomini partivano dopo aver caricato i sacchi verso la città. Di solito tornavano dopo 4 giorni con i soldi ricavati dalla vendita e con la provvista. Ed era una festa per tutto il villaggio. Si ballava fino a non poterne più. Era la festa più bella dell'anno. Ma una volta li vedi tornare tristi e la festa non ci fu. Quella sera tutti si radunarono davanti alla casa del nonno ed egli uscì e si sedette. Tutti tacquero. Il nonno non riusciva a parlare. Questo mi spaventò. Doveva essere successo qualche cosa di molto grave, se il nonno non riusciva a raccontare niente. Dopo un silenzio che sembrò durare un'eternità, il nonno disse con la voce mogia e che quasi non si udiva: abbiamo portato il nostro caffè. Come sempre ai compratori, quelli che poi lo vendono agli europei. Era tanto quest'anno il nostro caffè. È stata una buona annata. Ma loro hanno detto che ce la potevano pagare al massimo la metà dell'anno scorso. Io ho protestato, ma non c'è stato verso di smuoverli. Allora ho detto che con la metà del prezzo noi potevamo vivere solo la metà dell'anno. Ma loro hanno detto che non c'era niente da fare, o prendevamo la metà o potevamo rapportare a casa il nostro caffè. Noi abbiamo continuato a insistere. E allora hanno chiamato uno con gli occhiali per spiegarci perché non potevano pagare il solito prezzo. E lui ha detto che il prezzo del caffè è cambiato. Ma cosa significa, gli ho chiesto, che è cambiato? Che lo ha cambiato? Gli ha detto che a Londra avevano deciso che il caffè costa la metà. Ho provato a spiegargli che a Londra non sanno quanto vale il caffè. Loro lo bevono, ma non sanno quanto vale. Non sanno che noi con metà dei soldi arriviamo solo a metà dell'anno. Ho detto che siamo noi quelli che sanno quanto vale il caffè, non quelli di Londra. Ma quell'uomo con gli occhiali ha riso e se n'è andato. Alla fine abbiamo dovuto prendere la metà. Un silenzio pesante seguiva la parola del nonno riportata da George. Tutti capivano molto bene cosa voleva dire. A questo punto George si fermava e rimaneva in silenzio. Gli ascoltatori dopo un po' si riprendevano e cominciavano a chiedere, e poi, e allora? George a quel punto alzava un braccio. Tutti facevano silenzio e lui riprendeva. Io sono venuto in Europa tra i primi, poi sono venuti altri come me, con i soldi che mando a casa, e nonno può vivere anche per l'altra metà dell'anno. È finita la storia. Allora, questa storia ci serve per individuare tre elementi significativi per la riflessione che io sto per fare. Allora, intanto, oggi noi quando parliamo di identità culturale di altri popoli, spesso si dimentica un fatto, che il mondo che oggi conosciamo è un mondo che ha vissuto una trasformazione radicale nei suoi assetti culturali, non da oggi, ma da tanti secoli. Non a caso George, che è africano, ma il nome George è tipicamente africano? Quindi già c'è stata una contaminazione sul piano culturale e linguistico. George, l'altro elemento che ci serve, è sul piano economico. George trova di dover abbandonare la sua realtà, trasformarsi in lavoratore, a seguito di un cambiamento del prezzo del caffè, quindi l'assetto economico mondiale ha inglobato l'economia di George. E quindi George, insieme alla sua comunità, hanno subito questa trasformazione. Quindi un altro dato, che c'è stata una trasformazione culturale e c'è stata una trasformazione economica. Quindi George sul piano culturale e sul piano economico è dentro questo mondo che noi conosciamo oggi, dentro la quale volente o nolente fa i conti e si relaziona. Terza cosa, sul piano sociale. Una famiglia contadina, famiglia estesa, no? Vive questa trasformazione, che un esponente di questa famiglia lascia questa tradizione contadina e quindi lascia questa organizzazione sociale e si trasforma in un singolo che vende la sua forza lavoro, dove è possibile trovare compratori, quindi arriva in Europa. Quindi per cui oggi buona parte degli immigrati che approdano in Italia, in Europa, hanno avuto già una socializzazione anticipata con il sistema che noi reputiamo nostro. Quindi sul piano, come dicevo, linguistico-culturale, sul piano eventualmente religioso per alcuni popoli, sul piano economico e sul piano della trasformazione sociale, ma soprattutto anche per quanto riguarda l'interiorizzazione di elementi, di parametri, di l'affermazione dell'individuo, il successo individuale in questo caso qua, George l'ha letto secondo i parametri del sistema vincente, quindi altrimenti non sarebbe venuto qua. Quindi c'è un'interiorizzazione, una socializzazione anticipata anche di parametri di successo e di affermazione. Per cui, a questo punto, cosa vuol dire oggi, qual è la distanza culturale con la quale possiamo misurare quanto sono diversi queste persone? O se effettivamente questi o in un modo assoluto diversi rispetto a una visione, un nostro immaginario. Quindi quello perché io sto sottolineando, perché oggi noi assistiamo ad una retorica identitaria che comunque definisce l'altro, partendo dal suo potere definitorio, e quindi quella di la diversità non è un sentire vissuto dagli altri, ma un vincolo imposto dall'esterno all'interno delle relazioni asimmetriche non paritarie, dove c'è una parte che ha il potere definitorio nel decidere eventualmente quanto sono diversi o eventualmente anche quanto è quella diversità sia compatibile o meno, cioè con alcuni, dentro alcuni modelli. Per cui George, il suo arrivo è un'adesione, se vogliamo, al modello vincente. Ma dall'altra parte George porta con sé un'identità plurale. George africano, George contadino, o di famiglia contadina, George assalariato, George però anche migrante. E quindi queste sono una serie di rappresentazioni o di autorappresentazioni che formano questa identità di George. Quindi l'identità di George non è solo quella culturale, perché proviene da un continente o da un paese o da un contesto, ma nell'agire di George sono sedimentate diversi livelli di identificazione. Essere contadino e trasformarsi in un salariato, essere dell'Africa però vive in Europa, per cui oggi molti antropologi, anche sociologi, parlano più di, non è più di identità, ma di una strategia identitaria che l'individuo si dà per interpretare la sua collocazione dentro i contesti. E quindi è un prodotto relazionale, quindi non è un prodotto storico dato per una volta e rimane tale, ma è una relazione quindi con altri agenti del territorio, con altri soggetti, per cui la relazione per sua natura produce cambiamenti e produce trasformazioni, sia nel soggetto stesso che interpreta in questo caso qua il processo migratorio, ma anche con gli interlocutori collocati nell'ambito in cui si trova questo soggetto migratorio. Per cui l'individuo a questo punto... sta all'individuo, scusate, il compito di attualizzare la propria cultura. Quindi non c'è una cultura interpretata nelle stesse misure da tutti gli individui che appartengono ad una data cultura. Quindi gli individui che attualizzano la cultura in base, come diceva prima, è a queste coesistenze di autorappresentazioni. Appartiene ad una certa famiglia, ad una certa classe sociale, ad un certo territorio, ad una certa nazione, ad un certo livello di istruzione, no? Quindi sono elementi al genere maschile o femminile, quindi questi sono elementi che si modificano nel tempo producendo queste strategie identitarie. Per cui, qui, le memorie di George, cosa funziona? George ci racconta la sua storia e dice tutta una serie di cose. E la memoria certamente non è un deposito di ricordi. La memoria ha una funzione fondamentale, quella di il mantenimento, come alcuni sostengono, è quella finalizzata al mantenimento di sé attraverso il tempo, e quindi fornire all'individuo quella capacità nel restare cosciente della continuità della sua vita attraverso i diversi cambiamenti, la rottura e la crisi. Quindi la memoria quindi ha una funzione non solo di ricordo, ma proprio una funzione di seguire il cambiamento dell'individuo. Per cui George, nell'arrivare nella realtà italiana, certamente intraprende questo processo di aggiustamento identitario. Aggiustamento identitario, adattarsi, darsi un ordine di priorità, definire la sua collocazione dentro questa realtà qui, facendo riferimento a due cose. Una, la propria memoria, che gli serve come a questa funzione di mantenimento di sé, e dall'altra parte però agire dentro un contesto nel quale George deve costruirsi un suo progetto reale dentro questo contesto, quindi come riuscire a interiorizzare le regole e le dinamiche circostanti, perché George da ora in poi il suo aggiustamento identitario finalizzato a trovare questa unità combinatoria, come riuscire quindi a trovare questo equilibrio che permette a George di rimanere integro come soggettività, attingendo dalla sua memoria, quindi dalla memoria, della propria memoria culturale, e dall'altra parte intraprendendo un processo di apprendimento dentro questo nuovo contesto, per cui entrambi i contesti diventano fondamentali, determinanti per l'elaborazione di questa unità combinatoria. Così la memoria poi, come dicevo prima, non solo ricordi, ma può essere fatta anche, anzi è necessario forse, anche l'obbligo, dimenticare delle cose per poter relazionare a nuovi contesti. E questo ci porta poi anche alle memorie collettive, alle memorie nazionali, spesso vengono esaltate alcuni elementi e spesso poi si dimentica che all'interno della comunità che uno si riconosce sono stati guerre civili, massacri, versate di sangue, però vengono emarginate esaltando alcuni aspetti, per cui l'oblio ha una funzione di coesione di una comunità, per darsi una veste unitaria. E per cui George quindi intraprende questo processo di aggiustamento identitario come tanti altri, e quindi finalizzato a trovare un equilibrio, una unità combinatoria. Però su questa unità combinatoria incidono molte altre cose, quindi non solo come oggi sovente si parla che le identità culturali, mentre qui, come dicevamo prima, incidono sull'aggiustamento identitario degli individui il genere, il livello di istruzione, l'appartenenza di classe, l'occupazione e il riconoscimento che ha l'individuo in un'occupazione o nell'altra, o l'occupazione che il riconoscimento sociale ha nelle gerarchie delle professioni o dei lavori. Poi nella casa dei migranti anche che cosa vuol dire è la politica di accoglienza e di orientamento presente sul territorio, e poi incide certamente anche le progetti che hanno queste persone rispetto al loro percorso di vita. Allora vedete che qui viene meno queste astratte identità culturali, ma diventano altre identità sociali, di genere, identità politiche, ideologiche, che possono certamente incidere molto su questo processo di aggiustamento identitario. Oggi prevale, come facciamo a integrare altra cultura, come fosse la cultura interpretate nello stesso modo da tutti gli individui, come il borghese della città, della metropoli, e le interpreta nella stessa misura delle persone in una zona rurale, appartenenti allo stesso, magari, contesto statuale. Quindi oggi c'è questa questione di far coincidere la cultura con lo Stato, quindi qualunque provenienza statuale implica una provenienza culturale, e qualunque provenienza culturale è monolitica, mentre gli individui vengono da contesti assolutamente differenziati anche da all'interno degli stessi stati, e si trovano dentro contesti culturalmente molto differenziati. Quindi una che arriva in Italia trova tante culture italiane, e se poi non parliamo del nostro contesto, che le cose sono ancora più evidenti. Allora perciò oggi, per concludere, ho superato? 10 minuti ancora. Sono chiaro nei miei ragionamenti? Unità combinatoria, perché non vorrei produrre termini che possono comunque così abbassare l'attenzione, però equivalente di equilibrio comunque. E quindi questa unità combinatoria di George, di queste che il processo di aggiustamento identitario vorrebbe raggiungere, anche ci porta a ragionare che cosa è effettivamente anche questo multiculturale, multietnico. Sono parole che poi, come dice grande pensatore che ci ha lasciato 2 anni fa, e sulla punta della lingua, ma mi è sfuggito, Ivan Illich, scusate, dice: noi abbiamo a che fare con delle parole ameba che non hanno una forma effettivamente chiara e ben definita, sfugano, fluida. Per cui anche la parola identità, anche Bauman, quando le definisce, dice è sul vocabolario, lo troviamo come un sostantivo, però nella realtà si comporta come un verbo, ha bisogno di essere continuamente coniugata. E quindi, per cui, il discorso di multiculturale, poi di fatto, se vogliamo sviscerare meglio i nostri propri contesti culturali, ogni cultura per sua natura è multiculturale, perché alla base di ogni cultura trovano delle sedimenti provenienti, sedimenti culturali provenienti di altri contesti culturali, banalmente. O noi viviamo in un contesto fondamentalmente cattolico, e vanta, e anzi definisce anche la propria identità come fosse basata su questo pilastro, o uno dei pilastri identitari. Però se andiamo a vedere, questa religione è stata prodotta da un contesto geografico altro, e c'è stata trasmessa da individui, no? Quindi la cultura cammina perché l'individuo cammina, è difficile trovare una cultura che passa a Piazza Walter, ci sono degli individui che passano a Piazza Walter, o a Ponte Talder, ci sono degli individui. E quindi il multiculturalismo, per il cammino quindi che ha caratterizzato questa umanità, quindi gli individui hanno sedimentato in tutti i contesti dei contributi che sono oggi fondamentali nel recuperare e nel ripristinare e farli presente, evidenziarli, quindi ripristinare una memoria plurale della propria cultura. Seconda cosa del multiculturalismo, di cui io cerco così in un modo schematico, e poi magari il collega poi potrà aggiungere sicuramente molte cose che possono essere più ricche, anche magari più approfondite su questo tema. Quindi multiculturalismo, oggi molti sociologi ma anche antropologi su questo sono concordi, multiculturalismo vuol dire quindi andare a vedere la sedimentazione culturale proveniente da altri contesti, in questo caso è la religione, ma può essere l'inchiostro o la carta o tante altre, quindi è un processo continuo. Dall'altra parte, certamente quello che ci viene facilmente in mente è la coabitazione di gruppi linguistici, religiosi, che convivono, coabitano nello stesso territorio. E noi viviamo in una zona degli Alpi, e poi l'Italia del nord, della Slovenia, del confine con l'ex Jugoslavia, fino la Francia dall'altra parte, la montagna è abitata da popolazioni che parlano la lingua, possiamo chiamarla non italiana, dallo sloveno al firulano, al ladino, al tedesco, al provenzano, all'occitano, al valzer o altre componenti linguistiche. Ma anche sul piano religioso, oggi sarebbe interessante anche andare a ripristinare una memoria plurale. Nella nostra realtà, la Chiesa luterana e il protestantesimo di case, come la comunità ebraica è di case in questa realtà. Ma non solo, anche sul piano religioso, oggi quando si parla di religione sembra che oggi chi porta un'altra religione è straniero. Invece, in una recente ricerca che abbiamo presentato, la ricerca a Trento, 30 settembre, abbiamo prodotto anche una pubblicazione che volevo portarle come un dono alla vostra biblioteca, però ve le manderò, e sul pluralismo religioso. Ci ha stupito che nella realtà trentina ci siano così tanti gruppi religiosi, ma questi gruppi religiosi poi fatti proprio dai trentini doc, quindi non è perché sono stranieri. Quindi noi dagli anni 60 in poi abbiamo, anche da questo punto di vista in Italia, abbiamo vissuto una trasformazione da questo punto di vista religiose, no? Soprattutto a seguito di movimenti di giovani, giovanili, molti dire i giovani sono andati verso altri continenti, hanno abbracciato il buddismo, l'induismo, religioni orientali, filosofie islamiche, e sono italiani. Per cui voglio dire, il contesto è già per sua natura, no? È caratterizzate da una coabitazione di gruppi linguistici culturali, e andare sicuramente a ripristinare questo. Certamente con l'emigrazione questo diventa più visibile, però ci aiuta questo. Se ripristiniamo questo assetto plurale, ci serve a dire che questi sono avere nuovi, ma aggiungano della cosa che già di ogni comunità. Quanto può sembrare monolitica? Sono presenti diversi modelli valoriali. La cultura del corpo, la concezione della famiglia, la preferenza ideologica, temi come l'aborto o il divorzio. In Italia, da quando sono arrivato, si discute e gli italiani non si sono concordi, vuole dire. Ma anche in un paese democratico ci sono delle persone distanti come concezione della democrazia. Ci sono dei gruppi che sono avversi. Per cui, vuole dire, all'interno del contesto ci sono modelli valoriali che differenziano l'appartenenza degli individui. Per cui questo ci aiuta di dire che gli altri che vengono vivono il loro aggiustamento identitario e alla ricerca di unità comunitaria provenienti da situazioni complesse, ma vivono poi situazioni complesse, nel senso che addentrarci nella nostra realtà vuol dire addentrarci nella nostra complessità, addentrarci nella nostra differenziazione. Vuol dire, io da tanti anni che vivo in Italia, ma vivo a Trento, però a Trento ci sono dei gruppi radicalmente diversi l'uno dagli altri rispetto a temi cruciali, vuole dire, concezione dell'ambiente e della caccia, come dicevo, il concetto di famiglia, da quelli che sostengono che la famiglia è un'unità, laicamente parlando, che può unire le persone al di là dei loro gusti, cioè insomma non è... deve essere una famiglia sessualmente ortodossa, può essere eterodossa, no? Per cui famiglia di fatto, famiglia di omosessuali, famiglia tradizionali, la famiglia come contratto, la famiglia come sacramento, quindi vuol dire sono tutti modelli familiari che sono presenti all'interno della comunità. Quindi vuol dire questo, quando l'immigrato che deve vivere poi le sue identità, in questo caso qua, il suo processo di aggiustamento identitario, deve vivere dentro questi assetti molto complessi, per cui a volte diventa veramente problematico chiedere al migrato, ma sei diventato come noi, ma noi chi siamo? Però. I cattolici praticanti, gli anticlericali, i vegetariani, quelli che vanno al campo di calcio, quelli che insomma giocano le schedine di calcio, quelli che frequentano le biblioteche, quelli che usufruiscono della grande cultura e dei concerti di musica classica. Cioè vuol dire, e noi diventa qua coniugarlo, quindi tornare al discorso di Bauman, come coniugare queste identità. E oggi diventa cruciale questo fatto qua di come coniugare l'identità e trovare la sua complessità per poter, no, rapportarsi alle nuove provocazioni che produce la globalizzazione e dentro la quale ci sono questi movimenti migratori. E quindi di fatto poi la migrazione ci porta a vivere tutti insieme un aggiustamento identitario. Allora qua, per vivere questo, mi diceva prima all'intervista il giornalista, cosa allora fare? E qui oggi veramente diventa la nostra salvezza come estendere i confini delle democrazie, che per sua natura è finalizzata al riconoscimento delle differenze per far sì che ognuno felice di essere come tale nel contribuire, no? Partecipando, no? Nel definire un progetto di convivenze che vale per tutti. E vi ringrazio. Allora, dal momento che condivido le riflessioni di Adel Zabbar, integrerò, le mie riflessioni sono complementari alle sue. D'altra parte, io sono nato a Venezia, mi sono trasferito a Milano nel 1970, la mia esperienza personale di migrazione è interna, ai confini nazionali, insegno storia in una scuola secondaria superiore all'università e quindi integrerò con riflessioni di tipo storiche, didattiche, educative, le riflessioni che è stupido anche qui fare delle etichette, che sono globali poi perché sono sociologiche di partenza, ma ovviamente anche economiche, anche culturali, che sono state fatte prima. Allora, anch'io partirei proprio da alcuni punti per me fermi della comunicazione precedente, vale a dire l'idea che le parole chiave che troviamo nel titolo di questa serata, memoria, aggiungerei anche proprio memoria, identità, etnia, multietniche, sono, per dire così, dei termini un po' sfuggenti, dei termini fluidi, che non vanno irrigiditi. Qualcuno li ha chiamati anche ambigui, nel senso che si prestano a diverse interpretazioni. Partirei da etnia e partirei, per essere anche più, diciamo, comunicativo in questa fascia della serata, anch'io da una citazione, che è un racconto, non di tipo narrativo, ma in un certo senso anche questa è una narrazione. Il testo è un testo del 1936 di un antropologo degli Stati Uniti, Ralph Linton. Il libro, tradotto in italiano, si chiama Lo studio dell'uomo. Io isolo da un brano più lungo, che è la descrizione della giornata media di uno statunitense medio degli anni 30. Con questo piccolo accorgimento, ecco, lo faccio da storico, che per ogni gesto della vita quotidiana dice quella che è l'origine storica del gesto o dell'oggetto, o quella che negli anni 30, perché lo studio della storia ovviamente ha fatto anche degli altri passi avanti, si pensava che fosse l'origine storica. Io non vi leggo tutto il racconto perché porterebbe via troppo tempo, ma vi leggo semplicemente come si apre la giornata e come si chiude. Il cittadino americano medio si sveglia in un letto costruito secondo un modello che ebbe origine nel vicino Oriente, ma che venne poi modificato nel Nord Europa prima di essere importato in America. Egli scosta le lenzuola e le coperte, che possono essere di cotone, pianta originaria del vicino Oriente, o di lana di pecora, animale originariamente addomesticato nel vicino Oriente, o di seta, il cui uso fu scoperto in Cina. Tutti questi materiali sono stati filati e tessuti secondo procedimenti inventati nel vicino Oriente. Si infila i mocassini, inventati dagli indiani delle contrade boscose dell'est, e va nel bagno, i cui accessori sono un misto di invenzioni europee ed americane, entrambe di data recente. Si leva il pigiama, indumento inventato in India, e si lava con il sapone, inventato dalle antiche popolazioni galliche. Poi si fa la barba, rito masochistico che sembra sia derivato dai Sumeri o dagli antichi egiziani. Salto la parte intermedia e andiamo al finale. Quando il nostro amico ha finito di mangiare, si appoggia alla spalliera della sedia e fuma secondo un'abitudine degli indiani d'America. Mentre fuma, legge le notizie del giorno, stampate in un carattere inventato dagli antichi semiti, su di un materiale inventato in Cina e secondo un procedimento inventato in Germania. Mentre legge i resoconti dei problemi che si agitano all'estero, se è un buon cittadino conservatore, con un linguaggio indoeuropeo, ringrazierà una divinità ebraica di averlo fatto al 100% americano. Ecco, di solito noi quando ci rappresentiamo la nostra identità, ce la rappresentiamo meno multietnica e meno culturale di quanto non sia, anche meno multilinguistica. Questo è un po' un modo per entrare in argomento. Diciamo quindi che non a caso vari studiosi di varia provenienza, di varie discipline, antropologi, sociologi, psicologi, hanno definito l'identità etica come una delle identità ambigua oltre che complessa. Facciamo un esempio che è storico, no? Allora, gli indoeuropei e le lingue indoeuropee. Anche grandi studiosi sono, per limiti insomma, che ognuno ha, caduti un po' nella trappola. Quando noi vediamo che un determinato oggetto manufatto, un'urna cineraria per esempio, un tipo di vasellame, lo troviamo da, non so, da una parte dell'Europa orientale fino al Portogallo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che si sono spostate masse di popolazione, che so, dalla Romania al Portogallo, quindi migrazioni. Magari una volta venivano chiamati invasioni, che è un termine meno scientifico e molto connotativo a senso unico. Oppure si sono spostate soltanto le avanguardie di quelle popolazioni mercanti e hanno viaggiato, hanno portato con sé gli oggetti e hanno diffuso l'uso di quell'oggetto. Oppure ancora, in qualche caso, nessun mercante è mai andato dalla Romania in Portogallo. Si sono trovati in centri di mercato, diciamo, a metà strada, e lì quello che in realtà si è diffuso, quello che sono circolati, sono stati gli oggetti. Ecco l'equivoco. E l'equivoco tra etnia e cultura, per esempio. Ha viaggiato l'oggetto, ha viaggiato un popolo, ha viaggiato soltanto alcune categorie particolari di quel popolo o di quei popoli mercanti. L'errore di confondere le lingue indoeuropee con una presupposta etnia indoeuropea è stato un errore. Non perché si possa dire con esattezza che non sia un'etnia, ma perché allo stato attuale delle ricerche scientifiche sembra che si debba continuare a distinguere tra etnia, lingua e cultura. Una cosa sono le lingue indoeuropee, una cosa sono gli indoeuropei come popolazione, una cosa sono le pratiche culturali, che possono essere anche adottate e scambiate. Questo è uno dei tanti esempi che potremmo fare di confusione. Anni fa è stata una bella mostra a Venezia sui Celti, nel catalogo c'era scritto i Celti sono un'etnia, e l'intera comunità scientifica, con rarissime eccezioni, ha fatto un balzo sulla sedia, perché non abbiamo nessun elemento per dire che i Celti siano un'etnia. Certo c'è la cultura di Hallstatt, certo c'è questo, però per adesso è più prudente parlare semmai di culture. Potrei aggiungere degli esempi che inquinano l'informazione e il dibattito politico sulle vicende, per esempio, del vicino e Medio Oriente. La confusione tra arabico inteso come abitante della penisola arabica, per non dire Arabia Saudita, allora potremmo dire saudita, arabo nel senso di lingua araba, arabo di cultura araba ma non di madrelingua araba, cioè usa l'arabo come una seconda lingua culturale. E tra tutto questo, arabico, arabo e per esempio palestinese piuttosto che iracheno, o musulmano, o con molte virgolette, non so, musulmano fondamentalista. Allora, come è noto, bisogna distinguere. Sappiamo che non ogni musulmano è arabo, e non ogni arabo è musulmano, non ogni palestinese è arabo, e non ogni arabo è palestinese. Ma lo stesso possiamo dire tra ebreo e israeliano. Non ogni ebreo è israeliano, non ogni israeliano è ebreo. E non ogni israeliano la pensa come il suo governo. Lo scalpore che ha destato l'indagine di Eurobarometro a proposito di quali sono, si diceva, no, i paesi, il termine un po' confuso, ambiguo, che costituiscono una minaccia maggiore per la pace mondiale. Ma la domanda era mal posta, perché io devo capire se sto parlando di governi, di stati o di popoli. Sono due cose completamente diverse. Se io dico un governo può costituire una minaccia per la pace nel mondo, non è la stessa cosa che dire che tutte le persone di quello Stato sono una minaccia per la pace nel mondo. Faccio un esempio pratico. Se al tempo del fascismo in Italia avessimo tacciato di anti-italiani tutti quelli che facevano una critica al fascismo, forse erano più italiani nel senso buono del termine degli altri. Però ecco, la confusione in questo caso, per esempio, è tra governi, stati e popoli. Allora, il problema è che tante volte noi facciamo un uso o rigido, no? O come dire, a senso unico dei termini, oppure al polo opposto, troppo confuso. Conviene convenzionare i termini, rimettere un po' d'ordine tra i concetti, sapendo che non li possiamo definire, inscatolare, perché le realtà sono più complesse. Sono delle convenzioni, degli strumenti, come tutte le convenzioni, funzionano solo entro certi limiti, e oltre quei limiti il loro uso diventa una catastrofe, rischia di essere molto negativo. Gli esempi potrebbero essere moltissimi. Aggiungo qualcosa, sempre lo studioso da cui ho tratto di seconda mano la citazione, mi sono letto anche il libro di Lindo, ma per comodità ho portato questo, che è Ugo Fabietti, che è un antropologo che ha scritto un libro chiamato L'identità etnica, è venuto anni fa anche qui a Bolzano a parlare di questi temi. Allora, Fabietti, faccio una breve citazione, dice: più che essere rispecchiamento nella lingua di realtà naturali, l'etnia e l'etnicità sono delle vere e proprie costruzioni simboliche, il prodotto di circostanze storiche, sociali e politiche determinate, costrutti culturali mediante i quali un gruppo, diciamo, produce una definizione del sé e o dell'altro collettivo. Si tratta di definizioni mediante cui questo gruppo si autoattribuisce una omogeneità interna e contemporaneamente una diversità rispetto ad altri. Ma l'identità etnica non è il frutto della pura immaginazione. Una volta immaginate, le etnie assumono una consistenza molto concreta per coloro che vi si riconoscono. Come dire, è una costruzione soggettiva che ha delle conseguenze oggettive. Anni fa Michele Serra, che non è un famoso umorista ma è un suo omonimo, studioso di cinema e persona che ha lavorato per anni all'Istituto regionale per la sperimentazione, ricerca e aggiornamento Veneto, la Mestre, Aveva partecipato, così come volontariato, a un'organizzazione e promozione di un campo per profughi dalla ex Jugoslavia, in particolare dalla ex Bosnia. A un certo punto alcuni animatori del centro di Jesolo, pensando che la maggior parte di queste persone veniva dalla Bosnia, sapete che il conflitto era, tra virgolette, almeno apparentemente anche religioso, pensando di metterli a proprio agio, di essere accoglienti, ha detto: sono musulmani, procuriamo loro un imam, un capo religioso, tra virgolette. Le ragazze, che erano abituate, come insomma, la Bosnia è un po' una periferia del mondo islamico, e come a volte succede in periferia, con delle usanze molto meno, diciamo, letterali e rigide in materia di Ramadan, è una strategia anche questa di adattamento identitario, ovviamente, no? Ecco, le ragazze che non portavano il velo, quando è venuto l'imam, per cortesia si sono messe il velo, poi è andato via l'imam, se lo sono tolto. Molte persone di Sarajevo dicevano, ma se avete visto film come quelli di Emil Kusturica, no? Dove nella stessa famiglia sono tre fratelli, uno è cattolico, l'altro ortodosso e il terzo è musulmano. E la guerra ha diviso queste persone. Alcune persone che erano magari, come alcuni ebrei erano in Italia del 38, non ebrei praticanti, o non praticanti secondo la maniera di un ebreo ortodosso, che avevano conservato dell'Islam fondamentalmente dei tratti culturali più che dei tratti di osservanza in senso stretto religiosa, alcuni, no? A furia di sentirsi dire sei musulmano, hanno detto vabbè, allora faccio un musulmano sul serio. Cioè, voglio dire, l'identità è anche, non è un'autodefinizione, come ha detto giustamente prima da Jabba, spesso è una eterodefinizione, una definizione che ti dà l'altro. Non è molto diverso da quello che succede magari nelle relazioni insegnanti e studenti a scuola. Se un ragazzo si sente etichettato, a un certo punto dice bene, allora rivendico orgogliosamente l'etichetta che mi dai e la faccio fino in fondo, che è una cosa normale, una reazione non sempre magari salutare, ma psicologicamente comprensibile.